ad alta voce. Maddalena Crippa legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Una delle più gran consolazioni di questa vita è l'amicizia. E una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere a cui confidare un segreto. Ora, gli amici non sono a due come gli sposi. Ognuno, generalmente parlando, ne ha più di uno, il che forma una catena di cui nessuno potrebbe trovare la fine. Quando dunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno d'un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione anche lui. Lo prega, è vero, di non dir nulla a nessuno, e una tal condizione, chi la prendesse nel senso rigoroso delle parole, troncherebbe immediatamente il corso delle consolazioni. Ma la pratica generale ha voluto che obblighi soltanto a non confidare il segreto se non a chi sia un amico ugualmente fidato, e imponendogli la stessa condizione. Così, da amico fidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quell'immensa catena, tanto che arriva all'orecchio di colui o di coloro a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo arrivare mai. Avrebbe però ordinariamente a stare un gran pezzo in cammino se ognuno non avesse che due amici, quello che gli dice e quello a cui ridice la cosa da tacersi. Ma ci sono degli uomini privilegiati che li contano a centinaia, e quando il segreto è venuto a uno di questi uomini, i giri divengono sì rapidi e sì moltiplici che non è più possibile di seguirne la traccia. Il nostro autore non ha potuto accertarsi per quante bocche fosse passato il segreto che il Griso aveva ordine di scovare. Il fatto sta che il buon uomo da cui erano state scortate le donne a Monza, tornando verso le 23 col suo barroccio a Pescarenico, s'abbatté prima di arrivare a casa in un amico fidato, al quale raccontò in gran confidenza l'opera buona che aveva fatta e il rimanente. E il fatto sta che il Griso poté, 2 ore dopo, correre al palazzotto a riferire a Don Rodrigo che Lucia e sua madre s'erano ricoverate in un convento di Monza e che Renzo aveva seguitata la sua strada fino a Milano. Don Rodrigo provò una scellerata allegrezza di quella separazione e sentì rinascere un po' di quella scellerata speranza ad arrivare al suo intento. Pensò alla maniera gran parte della notte e s'alzò presto con 2 disegni, l'uno stabilito, l'altro abbozzato. Il primo era di spedire immantinente il Griso a Monza per avere più chiare notizie di Lucia e sapere se ci fosse da tentare qualche cosa. Fece dunque chiamar subito quel suo fedele, gli mise in mano i 4 scudi, lo lodò di nuovo dell'abilità con cui li aveva guadagnati e gli diede l'ordine che aveva premeditato. «Signore», disse tentennando il Griso. «Che? Non ho io parlato chiaro?» «Se potesse mandar qualchedun altro...» «Come?» «Signore illustrissimo, io sono pronto a metterci la pelle per il mio padrone, è il mio dovere, ma so anche che lei non vuole arriscar troppo la vita dei suoi sudditi. Ebbene?» «Vossignoria illustrissima, sa bene quelle poche taglie che io addosso e qui sono sotto la sua protezione. Siamo una brigata. Il signor Podestà è amico di casa, i birri mi portano rispetto e anch'io. È cosa che fa poco onore, ma per vivere quieto li tratto da amici. In Milano la livrea di Vossignoria è conosciuta, ma in Monza ci son conosciuto io invece. E sa Vossignoria che, non fo per dire, chi mi potesse consegnare alla giustizia o presentare la mia testa farebbe un bel colpo? 100 scudi l'uno sull'altro e la facoltà di liberar 2 banditi. Che diavolo, disse Rodrigo. Tu mi riesci ora come un can da pagliaio che ha cuore appena ad avventarsi alle gambe di chi passa sulla porta, guardandosi indietro se quei di casa lo spalleggiano e non si sente d'allontanarsi. Credo, signor padrone, d'aver dato prove. Dunque? Dunque, ripigliò francamente il Griso, messo così al punto, dunque, Vossignoria, faccia conto che io non abbia parlato. Cuor di leone, gamba di lepre e son pronto a partire. E io non ho detto che tu vada solo. Piglia con te un paio de meglio, lo sfregiato e il tiradritto. E va di buon animo e sì, il Griso. Che diavolo! Tre figure come le vostre e che vanno per i fatti loro, che vuoi che non sia contento di lasciarle passare? Bisognerebbe che ai birri di Monza fosse benvenuta a noi alla vita per metterla su contro 100 scudi a un gioco così rischioso. E poi, non credo d'essere così sconosciuto da quelle parti che la qualità di mio servitore non ci si conti per nulla. Svergognato così un poco il Griso, gli diede poi più ampie e particolari istruzioni. Il Griso prese i due compagni e partì con faccia allegra e baldanzosa, ma bestemmiando in cuor suo Monza e le taglie e le donne e i capricci dei padroni, e camminava come il lupo che, spinto dalla fame, col ventre raggrinzato e con le costole che gli si potrebbero contare, scende dai suoi monti dove non c'è che neve, s'avanza sospettosamente nel piano, si ferma ogni tanto con una zampa sospesa, dimenando la coda spelacchiata, leva il muso, odorando il vento infido, se mai gli porti odore d'uomo o di ferro, rizza gli orecchi acuti e gira due occhi sanguigni da cui traluce insieme l'ardore della preda e il terrore della caccia. L'altra cosa che premeva Don Rodrigo era di trovar la maniera che Renzo non potesse più tornar con Lucia né metter piede in paese, e a questo fine macchinava di far sparger voci di minacce e di insidie che, venendogli all'orecchio per mezzo di qualche amico, gli facessero passar la voglia di tornar da quelle parti. Pensava però che la più sicura sarebbe se si potesse farlo sfrattar dallo Stato, e per riuscire in questo vedeva che più della forza gli avrebbe potuto servir la giustizia. Si poteva, per esempio, dare un po' di colore al tentativo fatto nella casa parrocchiale, dipingerlo come un'aggressione, un atto sedizioso, e per mezzo del dottore fare intendere al podestà che era il caso di spedir contro Renzo una buona cattura. Ma pensò che non conveniva a lui di rimestar quella brutta faccenda, e senza star altro a lambiccarsi il cervello si risolvette d'aprirsi col dottor Azzeccagarbugli quanto era necessario per fargli comprendere il suo desiderio. Le gride son tante, pensava, e il dottore non è un'oca. Qualcosa che faccia al caso mio saprà trovare, qualche garbuglio da azzeccare a quel villanaccio, altrimenti gli muto nome. Ma, come vanno le volte le cose di questo mondo, intanto che colui pensava al dottore come all'uomo più abile a servirlo in questo, un altro uomo, l'uomo che nessuno si immaginerebbe, Renzo medesimo, per dirla, lavorava di cuore a servirlo in un modo più certo e più spedito di tutti quelli che il dottore avrebbe mai saputi trovare. Ho visto più volte un caro fanciullo, vispo per dire il vero, più del bisogno, ma che a tutti i segnali mostra di voler riuscire un galantuomo. L'ho visto, dico, più volte affaccendato sulla sera a mandare al coperto un suo gregge di porcellini d'India che aveva lasciati scorrer liberi il giorno in un giardinetto. Avrebbe voluto farli andare tutte insieme al covile, ma era fatica buttata. Uno si sbandava a destra, e mentre il piccolo pastore correva per cacciarlo nel branco, un altro, due, tre ne uscivano a sinistra da ogni parte, di modo che, dopo essersi un po' impazientito, s'adattava al loro genio. Spingeva prima dentro quelli che erano più vicini all'uscio, poi andava a prendere gli altri, a uno, a due, a tre, come gli riusciva. Un gioco simile ci conviene fare coi nostri personaggi. Ricoverata Lucia, si accorse a Don Rodrigo e ora lo dobbiamo abbandonare per andar dietro a Renzo, che avevam perduto di vista. quella separazione dolorosa che abbiamo raccontata, camminava Renzo da Monza verso Milano, in quello stato d'animo che ognuno può immaginarsi facilmente: abbandonare la casa, tralasciare il mestiere e, quel che era più di tutto, allontanarsi da Lucia, trovarsi su una strada senza saper dove andrebbe a posarsi, e tutto per causa di quel birbone. Quando si tratteneva col pensiero sull'una o sull'altra di queste cose, si ingolfava tutto nella rabbia e nel desiderio della vendetta, ma gli tornava poi in mente quella preghiera che aveva recitata anche lui col suo buon frate nella chiesa di Pescarenico, e si ravvedeva. Gli si risvegliava ancora la stizza, ma vedendo un'immagine sul muro si levava il cappello e si fermava un momento a pregare di nuovo, tanto che in quel viaggio ebbe ammazzato in cuor suo Don Rodrigo e risuscitatolo almeno 20 volte. La strada era allora tutta sepolta tra due alte rive, fangosa, sassosa, solcata da rotaie profonde che, dopo una pioggia, diveniva rigagnoli, e in certe parti più basse s'allargava tutta, che si sarebbe potuto andarci in barca. A quei passi un piccolo sentiero erto a scalini sulla riva indicava che altri passeggeri s'eran fatta una strada nei campi. Renzo, salito per un di quei valichi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del Duomo sola sul piano, come se non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto, e fermò su due piedi, dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano quell'ottava meraviglia di cui aveva sentito parlare fin da bambino. Ma dopo qualche momento, voltandosi indietro, vide all'orizzonte quella cresta frastagliata di montagne, vide distinto e alto tra quelle il suo Resegone, e si sentì tutto rimescolare il sangue. Stette lì alquanto a guardar tristamente da quella parte, poi tristamente si voltò e seguitò la sua strada. A poco cominciò poi a scoprir campanili e torri e cupole e tetti. Scese allora nella strada, camminò ancora qualche tempo e, quando s'accorse d'essere ben vicino alla città, s'accostò a un viandante e, inchinatolo con tutto quel garbo che seppe, gli disse: «Di grazia, quel signore, che volete, bravo giovane? Saprebbe insegnarmi la strada più corta per andare al convento dei Cappuccini, dove sta il padre Bonaventura?» L'uomo a cui Renzo si indirizzava era un agiato abitante del contorno che, andato quella mattina a Milano per certi suoi affari, se ne tornava senza aver fatto nulla, in gran fretta, che non vedeva l'ora di trovarsi a casa e avrebbe fatto volentieri a meno di quella fermata. Con tutto ciò, senza dar segno di impazienza, rispose molto gentilmente: «Figliol caro, dei conventi ce n'è più d'uno. Bisognerebbe che mi sapeste dir più chiaro qual è quello che voi cercate». Renzo allora si levò di seno la lettera del padre Cristoforo e la fece vedere a quel signore, il quale, lettovi porta orientale, gliela rendette dicendo: «Siete fortunato, bravo giovane. Il convento che cercate è poco lontano di qui. Dunque prendete per questa viottola a mancina, è una scorciatoia. In pochi minuti arriverete a una cantonata d'una fabbrica lunga e bassa, è il lazzaretto. Costeggiate il fossato che lo circonda e riuscirete a Porta Orientale. Entrate e dopo 300 o 400 passi vedrete una piazzetta con dei begli olmi. Là è il convento, non potete sbagliare. Dio vi assista, bravo giovine». E, accompagnando le ultime parole con un gesto grazioso della mano, se ne andò. Renzo rimase stupefatto e edificato della buona maniera dei cittadini verso la gente di campagna, e non sapeva che era un giorno fuori dell'ordinario, un giorno in cui, Le cappe si inchinavano ai farsetti. Fece la strada che gli era stata insegnata e si trovò a Porta Orientale. La strada che s'apriva dinanzi a chi entrava per quella porta non si paragonerebbe male a quella che ora si presenta a chi entri da Porta Tosa. Un fossatello le scorreva nel mezzo, fino a poca distanza dalla porta, e la divideva così in due stradette tortuose, ricoperte di polvere o di fango secondo la stagione. Al punto dov'era e dov'è tuttora quella viuzza chiamata il Borghetto, il fossatello si perdeva in una fogna. Lì c'era una colonna con sopra una croce, detta di San Dionigi. A destra e a sinistra erano orti cinti di siepe e ad intervalli casucce abitate per lo più da lavandai. Renzo entra, passa, nessuno dei gabellini gli bada, cosa che gli parve strana, giacché da quei pochi del suo paese che poteva vantarsi d'essere stati a Milano aveva sentito raccontar cose grosse dei frugamenti e delle interrogazioni a cui venivano sottoposti quelli che arrivavano dalla campagna. La strada era deserta, di modo che se non avesse sentito un ronzio lontano che indicava un gran movimento, gli sarebbe parso ad entrare in una città disabitata. Andando avanti, senza saper cosa si pensare, vide per terra certe strisce bianche e soffici come di neve, ma neve non poteva essere, che non viene a strisce né per il solito in quella stagione. Si chinò su una di quelle, guardò, toccò e trovò che era farina. Grande abbondanza, disse tra sé, ci deve essere in Milano se straziano in questa maniera la grazia di Dio. Ci davano poi ad intendere che la carestia è per tutto. Ecco come fanno per tener quieta la povera gente di campagna. Ma dopo pochi altri passi, arrivato a fianco della colonna, vide ai piedi quella qualcosa di più strano. Vide sugli scalini del piedestallo certe cose sparse che certamente non erano ciotoli. E se fossero state sul banco d'un fornaio, non si sarebbe esitato un momento a chiamarle pani. Ma Renzo non ardiva a credere così presto ai suoi occhi, perché diamine, ma non era luogo da pani quello. Ma vediamo un po' che affare è questo, disse ancora tra sé. Andò verso la colonna, si chinò, ne raccolse uno. Era veramente un pan tondo, bianchissimo, di quelli che Renzo non era solito mangiare che nelle solennità. È pane davvero, disse ad alta voce, tanta era la sua meraviglia. Così lo seminano in questo paese, in quest'anno, e non si scomodano neppur per raccoglierlo quando cade. Che sia il paese di Cuccagna questo. Dopo 10 miglia di strada, all'aria fresca della mattina, quel pane, insieme con la maraviglia, gli risvegliò l'appetito. Lo piglio, deliberava tra sé, poh, l'han lasciato qui a discrezione dei cani, tant'è che ne goda anche un cristiano. Alla fine, se comparisce il padrone, glielo pagherò. Così pensando, si mise in una tasca quello che aveva in mano, ne prese un secondo e lo mise nell'altra, un terzo e cominciò a mangiare. E si rincamminò, più incerto che mai, e desideroso di chiarirsi che storia fosse quella. Appena mosso, vide spuntar gente che veniva dall'interno della città e guardò attentamente quelli che apparivano i primi. Erano un uomo, una donna e, qualche passo indietro, un ragazzotto. Tutte e tre con un carico addosso che pareva superiore alle loro forze e tutte e tre in una figura strana. I vestiti o gli stracci infarinati i visi e di più stravolti e accesi, e andavano non solo curvi per il peso ma sopra d'oglia come se gli fossero state peste l'ossa. Quell'uomo reggeva stento sulle spalle un gran sacco di farina, il quale bucato qua e là ne seminava un poco a ogni intoppo, a ogni mossa disequilibrata. Ma più sconcia era la figura della donna, un pancione smisurato che pareva tenuto a fatica da due braccia piegate come una pentolaccia a due manichi, e di sotto quel pancione uscivano due gambe nude fin sopra il ginocchio che venivano innanzi barcollando. Renzo guardò più attentamente e vide che quel gran corpo era la sottana che la donna teneva per il lembo con dentro farina quanta ce ne poteva stare e un po' di più, di modo che quasi a ogni passo ne volava via una ventata. Il ragazzotto teneva con tutte e due le mani sul capo una paniera colma di pani, ma per aver le gambe più corte dei suoi genitori rimaneva poco a poco indietro e, allungando poi il passo ogni tanto per raggiungerli, la paniera perdeva l'equilibrio e qualche pane cadeva. «Buttane via ancora un altro, buono a niente che sei!» disse la madre digrignando i denti verso il ragazzo. «Io non li butto via, cascando a secco, ma da fare!» rispose quello. «Hi, buon per te!» «Che ho le mani impicciate!» riprese la donna dimenando i pugni come se desse una buona scossa al povero ragazzo, e con quel movimento fece volar via più farina di quel che ci sarebbe voluto per farne i due pani lasciati cadere allora dal ragazzo. «Via, via!» disse l'uomo. «Torneremo indietro a raccoglierli o qualcheduno li raccoglierà. Si stenta da tanto tempo, ora che viene un po' d'abbondanza godiamola, in santa pace!» Intanto arrivava altra gente dalla porta, e uno di questi, accostatosi alla donna, le domandò: «Dove si va a prendere il pane?» «Più avanti», rispose quella, e quando furono lontani 10 passi soggiunse borbottando: «Questi contadini birboni verranno a spazzar tutti i forni e tutti i magazzini e non resterà più niente per noi». «Un po' per uno, tormento che sei», disse il marito. «Abbondanza, abbondanza!» Da queste e da altrettali cose che vedeva e sentiva Renzo cominciò a raccapezzarsi che era arrivato in una città sollevata e che quello era un giorno di conquista, vale a dire che ognuno pigliava a proporzione della voglia e della forza, dando busse in pagamento. Per quanto noi desideriamo di far fare buona figura al nostro povero Montanaro, la sincerità storica ci obbliga a dire che il suo primo sentimento fu di piacere. Aveva così poco da lodarsi dell'andamento ordinario delle cose che si trovava inclinato ad approvare ciò che lo mutasse in qualunque maniera. E del resto, non essendo punto un uomo superiore al suo secolo, viveva anche lui in quell'opinione o in quella passione comune che la scarsezza del pane fosse cagionata dagli incettatori e da fornai. Ed era disposto a trovar giusto ogni modo di strappar loro dalle mani l'alimento che essi, secondo quell'opinione, negavano crudelmente alla fame di tutto un popolo. Pure si propose di star fuori del tumulto e si rallegrò d'essere diretto a un cappuccino che gli troverebbe ricovero e gli farebbe da padre. Così pensando e guardando intanto i nuovi conquistatori che venivano carichi di preda, fece quella po' di strada che gli rimaneva per arrivare al convento. Dove ora sorge quel bel palazzo con quell'alto loggiato, c'era allora, e c'è ancora, non so molt'anni, una piazzetta, e in fondo a quella la chiesa e il convento dei Cappuccini, con 4 grandolmi davanti. Noi ci rallegriamo, non senza invidia, con quei nostri lettori che non han visto le cose in quello stato. Ciò vuol dire che sono molto giovani e non hanno avuto tempo di far molte corbellerie. Ma Renzo andò dritto alla porta, si ripose in seno il mezzo pane che gli rimaneva, levò fuori e tenne preparata in mano la lettera e tirò il campanello. S'aprì uno sportellino che aveva una grata e vi comparve la faccia del frate portinaio a domandar chi era. «Uno di campagna che porta al padre Bonaventura una lettera pressante del padre Cristoforo». «Date qui», disse il portinaio mettendo una mano alla grata. «No, no», disse Renzo, «gliela devo consegnare in proprie mani». «Non è in convento». «Mi lasci entrare che l'aspetterò». «Fate a mio modo», rispose il frate. «Andate ad aspettare in chiesa, che intanto potrete fare un po' di bene. In convento per adesso non s'entra». E detto questo, richiuse lo sportello. Renzo rimase lì con la sua lettera in mano. Fece 10 passi verso la porta della chiesa per seguire il consiglio del portinaio, ma poi pensò di dar prima un'altra occhiata al tumulto. Attraversò la piazzetta, si portò sull'orlo della strada e si fermò, con le braccia incrociate sul petto, a guardare a sinistra verso l'interno della città, dove il brulichio era più folto e più rumoroso. Il vortice attrasse lo spettatore. «Andiamo a vedere», disse tra sé. Tirò fuori il suo mezzo pane e, sbocconcellando, si mosse verso quella parte. Intanto che si incamminava, noi racconteremo più brevemente che sia possibile le cagioni e il principio di quello sconvolgimento. Era quello il secondo anno di raccolta scarsa. Nell'antecedente, le provvisioni rimaste degli anni addietro avevano supplito, fino a un certo segno, al difetto, e la popolazione era giunta non satolla né affamata, ma certo affatto sprovveduta, alla messe del 1628, nel quale siamo con la nostra storia. Ora, questa messe tanto desiderata riuscì ancor più misera della precedente, in parte per maggior contrarietà delle stagioni, e questo non solo nel milanese, ma in un buon tratto di paese circonvicino, in parte per colpa degli uomini. Il guasto e lo sperperio della guerra era tale che nella parte dello Stato più vicina ad essa molti poderi, più dell'ordinario, rimanevano incolti e abbandonati da contadini, i quali, invece di procacciar col lavoro pane per sé e per gli altri, erano costretti ad andare ad accattarlo per carità. Le circostanze particolari di cui ora parliamo erano come una repentina esacerbazione d'un mal cronico. E quella qualunque raccolta non era ancor finita di riporre che le provvisioni per l'esercito e lo sciupio che sempre le accompagna ci fecero dentro un tal vuoto che la penuria si fece subito sentire, e con la penuria quel suo doloroso ma salutevole come inevitabile effetto, il rincaro. Ma quando questo arriva a un certo segno, nasce sempre, o almeno è sempre nata finora, e se ancora dopo tanti scritti di valentuomini pensate in quel tempo, nasce un'opinione nei molti che non ne sia cagione la scarsezza. Si dimentica d'averla temuta, predetta. Si suppone tutto a un tratto che ci sia grano abbastanza e che il male venga dal non vendersene abbastanza per il consumo. Supposizioni che non stanno né in cielo né in terra, ma che lusingano a un tempo la collera e la speranza. Gli incettatori di grano, reali o immaginari, i possessori di terre che non lo vendevano tutto in un giorno, i fornai che ne compravano, tutti coloro insomma che ne avessero o poco o assai o che avessero il nome d'averne, a questi si dava la colpa della penuria e del rincaro. Questi erano il bersaglio del lamento universale, l'abominio della moltitudine male e ben vestita. Si diceva di sicuro dove erano i magazzini, i granai, colmi, traboccanti, appuntellati. Si indicava il numero dei sacchi, spropositato. Si parlava con certezza dell'immensa quantità di granaglie che veniva spedita segretamente in altri paesi, nei quali probabilmente si gridava con altrettanta sicurezza e con fremito uguale che le granaglie di là venivano a Milano. Si imploravano da magistrati quei provvedimenti che alla moltitudine paion sempre, o almeno sono sempre parsi finora, così giusti, così semplici, così atti a far saltar fuori il grano nascosto, murato, sepolto, come dicevano, e a far ritornare l'abbondanza. I magistrati qualche cosa facevano, come di stabilire il prezzo massimo da alcune derrate, di intimar pene a chi ricusasse di vendere, e altri editti di quel genere. Siccome però tutti i provvedimenti di questo mondo, per quanto siano gagliardi, non hanno virtù di diminuire il bisogno del cibo né di far venir derrate fuor di stagione, e siccome questi in specie non avevano certamente quella da tirarne da dove ce ne potesse essere di soprabbondanti, così il male durava e cresceva. La moltitudine attribuiva un tale effetto alla scarsezza e alla debolezza dei rimedi e ne sollecitava ad alte grida dei più generosi e decisivi, e per sua sventura trovò l'uomo secondo il suo cuore. Maddalena Crippa ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.